Storie italiane. L'albero fiorito. Un tempo in India viveva un ricco mercante chiamato Alaima, che doveva navigare attraverso i mari per vendere il suo broccato, il suo cotone, la sua lana, la giada e le gemme in Europa e in Asia centrale. A quei tempi questi viaggi richiedevano mesi e così, alla vigilia della sua partenza, gli amici del commerciante si radunarono a casa sua per augurargli buona fortuna. Mentre la festa stava andando avanti, uno degli amici chiese al commerciante tra un morso e l'altro di pane dolce. Alaima, te ne andrai per mesi? Non ci hai mai detto chi di noi vuoi che si occupi della tua casa, della tua tenuta e del tuo magazzino in tua assenza? Oh, non preoccuparti, fratello. Il mio Jigme si occuperà di tutto. Cosa? Cosa? Chi? Quel Jigme che si prende cura dei tuoi cavalli? Sì, certo. Stai bene, Alaima? Jigme è solo un povero pastore. Tu lasci tutta la tua ricchezza nelle sue mani? E se rubasse e scappasse? Quanto sei sciocco a fidarti di un povero che è solo un servitore, invece di noi che siamo pari a te come ricchezza e situazione. Conosco Jigme da tanti anni. È un uomo buono e fedele e io non lo considero un servo. Lui è un mio amico. Solo tra pari si può essere amici, Alaima. Non importa quanto tu sia gentile con un servitore, un servo non potrà mai diventare amico. Non sono d'accordo. Jigme si è preso cura di me. È stato lì per me come un amico. Non sarà d'accordo con questo. Portiamolo dal Buddha. Forse il Buddha sarà in grado di fargli vedere la sua follia. Quindi gli amici del mercante lo portarono dove il Buddha stava predicando sotto l'albero di Banyan al crepuscolo. Spiegarono la situazione al Buddha. Diglielo tu. Come può fidarsi che un povero servitore si prenda cura di tutte le sue ricchezze? È particolarmente sciocco, soprattutto sapendo che noi, i suoi amici di pari status, siamo pronti a prenderci cura di tutto mentre lui sarà via. Il Buddha semplicemente sorrise e raccontò loro una storia. Molto tempo fa viveva un re a Banaras. Il re adorava il giardinaggio e trascorreva molte ore felici nel suo bellissimo giardino a palazzo. Si prendeva amorevolmente cura di tutti i fiori, gli alberi e gli arbusti. E c'era un albero che amava di più di tutti, l'albero fiorito. Nessuno sapeva quanti anni avesse l'albero, ma si trovava in mezzo al giardino ed era come un gigantesco mostro divino le cui radici andavano in profondità nella terra e dicevano che i suoi rami raggiungessero il cielo. L'intera città di Banaras era orgogliosa di questo antico albero che alcuni pensavano potesse avere più di 1000 anni. Chiunque lo vedesse non poteva fare a meno di ammirare la forza e le dimensioni. Le persone che lo vedevano ne rimanevano talmente colpite che nessuno notò un piccolo ciuffo di erba cuscia che cresceva vicino alle sue radici. Un giorno il re e la regina sorseggiavano il tè nella stanza principale del palazzo, quando all'improvviso alcuni pezzetti di stucco caddero sul re. Intonaco! Il re alzò lo sguardo e vide una crepa nel soffitto che andava dritto all'enorme pilastro che reggeva il soffitto. Era chiaro che il pilastro si stava rompendo. E se non fosse stato sostituito, il soffitto e l'intero palazzo sarebbero crollati, uccidendo tutti coloro che erano dentro. Il re si rese conto del pericolo e mandò immediatamente i suoi servi e falegnami a cercare nei giardini del palazzo per trovare un albero abbastanza forte con cui sostituire l'enorme pilastro. I domestici perquisirono i giardini e tornarono con questa notizia. L'albero fiorito, sire, è l'unico albero abbastanza forte da poter sostituire un pilastro di queste dimensioni. Oh, il mio albero preferito? Sei sicuro? Abbiamo osservato ogni albero nei giardini del palazzo, ma nessuno di loro è abbastanza forte. Nessuno, tranne l'albero fiorito. Il re fu rattristato nel pensare che il suo amato albero fiorito venisse abbattuto. Ma davvero non c'era altro modo? Oh, non posso rischiare la vita di così tante persone che vivono nel palazzo solo per salvare il mio amato albero. Bene, tagliatelo se dovete. Lo spirito dell'albero fiorito e anche gli spiriti di tutti gli altri alberi e uccelli avvertirono il disastro che stava per accadere. Quell'antico albero mistico doveva essere abbattuto. Gli uccelli smisero di cinguettare, l'aria si fermò. Il giardino divenne intriso di un'aura di tristezza e di mancanza di vita. Fu allora che lo spirito dell'erba cuscia parlò all'albero fiorito. Il giorno seguente, quando i taglialegna andarono a tagliare l'albero, proprio mentre stavano per colpire il tronco con le loro asce... Aspetta, l'albero sembra essere marcio qui. Vedi il colore della corteccia? Sì, ed è morbido qui. Non possiamo abbattere quest'albero. Non sarà mai abbastanza forte per essere un enorme pilastro. Proprio non capisco. Proprio ieri quest'albero era forte, duro e magnifico. E ora sta cadendo a pezzi. Forse non era destino che venisse abbattuto. Quando i taglialegna andarono via, gli uccelli ricominciarono a cinguettare. Il vento danzava magnificamente intorno ai rami ed era come se qualcuno avesse infuso nuova vita e gioia nel giardino. L'albero fiorito tornò ad essere se stesso, forte, magnifico di nuovo. Gli alberi furono scioccati nel vedere tutto questo. Albero fiorito, stai bene e sei in salute. Come hai fatto a far sembrare il tuo tronco marcio? Oh, è tutto grazie allo spirito del mio amico Kusha. Ha parlato con lo spirito del camaleonte, che ha fatto sì che i camaleonti salissero sul mio tronco e assumessero il colore del legno marcio. Quindi, quando i taglialegna lo videro, pensarono che il mio tronco stesse marcendo. Ma com'hai reso morbido il tuo tronco? I camaleonti intelligenti si spostarono verso il punto in cui il taglialegna toccava il tronco, così che al posto del tronco toccavano i corpi morbidi dei camaleonti e pensarono che il tronco fosse morbido e marcio. Veramente, Kusha? Noi, chiamati alberi potenti, non abbiamo potuto fare nulla per aiutare il nostro caro amico. È stata la tua saggezza a salvargli la vita. Grazie! E con questo il Buddha finì la sua storia. Amicizia e fiducia sono dati a coloro che sono saggi e fedeli. La saggezza e la lealtà non hanno nulla a che fare con lo status di una persona. Dobbiamo guardare alle qualità intrinseche di una persona piuttosto che alle loro apparenze esteriori in termini di ricchezza, status, età o occupazione. Sentendo questo, il commerciante sorrise mentre i suoi amici se ne andarono, umiliati e amareggiati. Mai più avrebbero giudicato una persona in base al denaro o allo status, ma piuttosto ne avrebbero guardato i valori. E se la persona fosse stata saggia e leale, l'avrebbero trattata con rispetto.